a conto arancio senza far chiasso, si è allungato il tasso. Non serve vincolare, così puoi sempre fare quel che tasso vuoi. Senza compromessi hai gli interessi, senza fare un tasso. Apri conto arancio e hai il gioco in 100 per 12 mesi, senza vincolare i risparmi e senza fare un tasso.